Merhaba. 95.9 Açık Radyo'dasınız. Itabella'dasınız. En son programımızda Napolitan yani kampanya bölgesine has şarkılara yer vermiştik. Şimdi o denli lokal olamadan İtalya'nın her bir bölgesinden yerel şarkılar dinleyeceğimiz bir programla bu yılın ilk Itabella'sına başlayalım. Öncelikle herkese bir önceki yıldan daha huzurlu, daha sağlıklı bir yıl dilerim. Daha iyi gelsin 2021. Şimdi ilk olarak gönlümde yeri çok başka olan Canım Toskana'dan geçelim. 1906 doğumlu Alberto Rabagliati yorumuyla Mattinata Fiorentina e Primavera geliyor. Yani bir Floransa sabahı bahar şarkısı. Benim sevgili Floransalı dostum Kekko'ya selamla gelsin lütfen. Mattinata Fiorentina dinliyoruz. È primavera, svegliatevi bambine, alle ascine messe riaprire farruga cuor, e a tarda sera, madonne fiorentine, quanti ricordi vi desseranno i prati in fior. Fiorin di noce c'è poca luce ma tanta pace, fiorin di noce c'è poca luce, fiorin di brace Madonna dice non nega baci, baciarle piace, che male c'è. È primavera, svegliatevi bambine, alle ascine messe riaprire far ruba cuore. È primavera, che festa di colori, madonne fiori tentasse il genio d'un gran pittor. E allora sera fiorivano gli amori, gli stessi amori che adesso intrecciano i nostri cuor. Fiorin di tinto s'amava tanto nel 400, fiorin di tinto s'amava tanto, fiorin d'argento Madonna amante le labbra tinte, per sin dall'avento si fa baciar. È primavera, che festa di colori, madonne fiori, trionfo eterno di gioventù. Bir Floransa bahar sabahı dinledik. Şimdi de 14. yüzyıla kadar gidiyoruz gibi görünüyor. Genelde Trescone dansı olarak da bilinen bir Toskana ortaçağ dansı gelecek şimdi. Bu iki aşamalı bir danstır. Öncelikle erkekler başlar, arkasından kadınlar da onlara eklenir. Aa, çok garip ki o zaman da öyleymiş. Ama biz şimdi bunu bir kadından dinleyeceğiz. 1936 doğumlu, 1993'te yaşamını yitiren Floransalı Daisy Lumini yorumuyla Leati Geppo, Leati Geppo, Toskana diyalektinde okunduğu şekliyle bir Trescone dinliyoruz. Leati Geppo e Soleil e Leo, va giù nell'aia e figlia e pertione, chiami le donne e t'anvisao, e sa d'andare a battere in marone. Teatevi dai sonno briaoni, che giunta l'è per voi la gran cucagna, sa da mangiare de folle dei piccioni, e vedivi che viene dalla campagna. E stasera quando si torna si farà una sballottata, e poi dopo una sonata tutta allegri si starà. Addio Carola, Carola addio. E voi massai e badà quegli agnelli, e dategli la broda tempaioli, levate la farina da mastelli, e giura mio se no vi scoppieranno. Fedde diavolo, salao mondo, fedde diavolo, salao mondo. Sarà dei nostri anche Peppin di Noce, e detto gli occhi porti l'organino, giusto ne compro uno a sette voce, lo fa sonà che sembra un carderino. Egli è un tremoto, gli è un accidente, tutti i versi gli sa fa. Gli è un tremoto, gli è un accidente, tutti i versi gli sa fare. Addio Carola, Carola addio. L'avevo detto anche ai soppriore, perché anche lui venisse ritrovato, ma mamma andata a dire bei fattore, che l'è nel letto tutto ammalazzato. E l'è in cucina con la sua serva, aiutagli a risciacquà. L'è in cucina con la sua serva, aiutagli a risciacquà. Addio Carola, Carola addio. Toskana'dan doğuya Adriyatik kıyılarına geçiyoruz, Abzura'ya geçiyoruz. Dindon La Campanella, yani çan seslerinin sözlerini ve müziğini Cesare de Titta'ya ait olan Terice Sirolla yorumunu dinleyeceğiz. Çanlar çalar, dindon, dindon, dindon. Campanelle che suonano mattutine, din don, sa risveglienghe l'angeli cille, din don, ma ci sta una fiole tante belle, din don, che gli piace lo sonne la madonna, la campanella per un celecante, l'amore per fa sante l'inzevo. Din don, din don, urnelle, tonchi sta campanelle, niente fe sante no. Dindo, dindo, urnelle, tunghi sta campanelle, ninte fesante no. Dindo, dindo, dindo, dindo. Campanelle che suonano mezzi urne, dindo, Dio che sete che tengono appetite. Chi me può comitare e mi commite, dindon, e magire di un'e che dindon, la campanella per un celecante, l'amore me fa sante ne zevo. Dindon, dindon, urnelle, tunghi sta campanelle, niente fe sante no. Dindon, dindon, urnelle, tunghi sta campanelle, niente fe sante no. Dindon, dindon, dindon, dindon. Campanelle che suoni 21 ore, dindon, se ne va poco a poco la giornata, dindon, e di te come me l'alma piagate, dindon, nu sospire ia esce da lungo. Campanelle per un celecante, l'amore per fa sante ne zevo. Dindo, dindo, urnelle, tunghi sta campanelle, niente fe sante no. Dindo, dindo, urnelle, tunghi sta campanelle, niente fe sante no. Dindo, dindo, dindo, dindo. Din campanelle che suone ben Marie, tinton, e calate lusole si fa notte, tinton, tutte stalle che mano giovenotte, tinton, e si chiude lu core di lambrì, e la campanella per uccelle cante, l'amore me fa sante ne zerò. Dindon, dindon, urnelle, dunghi sta campanelle, ninde fe sante no. Dindo, dindo, urnelle, tunghi sta campanelle, ninde fe sante no. Dindo, dindo, dindo, dindo. Çizmenin tabanına bazilika ataya iniyoruz. Hadi anneni bırak da gel benimle, seni gördüğüm yerde öpmek zorundayım diyen pek cüretkar bir tarantella geliyor şimdi. Teresa Tarantella, Come si fatta rossa. Come si fatta rossa, ma pare una cerasa, te voglio la nuvasa, a domma piace a me. Te voglio la nuvasa, a domma piace a me. Uè, uè, uè, lascia mamma te viene con me. Uè, uè, uè, lascia mamma te viene con me. Come si fatta ianga come la neve alla montagna, li capilla la mascagna, tu m'hai fatto innamorare. Li capilla la mascagna, tu m'hai fatto innamorare. Uè, uè, uè, lascia mamma te viene con me. Come si fatta nevera, come lo fumo la ciommanera, non sei mai e ma fosse magliere, ma facissa paroa. Se mai e ma fosse magliere, ma facissa paroa. Uè, uè, uè, lascia mamma te viene con me. Uè, uè, uè, lascia mamma te viene con me. Come si fatta ianga, ma pare una raccolta, da già scappa una botta, a domma piace a me. Da già scappa una botta, a domma piace a me. Uè, uè, uè, lascia mamma te viene con me. Uè, uè, uè, lascia mamma te viene con me. Fatta nella annella, oi ne quando si bella, mi hai fatto innamorare. Oi ne quando si bella, mi hai fatto innamorare. Uè, uè, uè, lascia mamma te viene con me. Uè, uè, uè, lascia mamma te viene con me. Uè, uè, uè, lascia mamma te viene con me. Uè, uè, uè, lascia mamma te viene con me. Lascia mamma te viene con me. Lascia mamma te viene con me. Bazilikata'dan Lombardiya'ya geçiyoruz aniden. Sözlü geleneğe has bir antik Lombardiya şarkısı dinleyeceğiz şimdi. Marmariate cinsinde bir şarkı bu. Hikayeli anlatım dediğimiz türden bir İtalyan şarkısı. Okuduğum bir kaynakta özellikle akşamları söylendiğini söylendiğine rastladım. Özetle antibiyotik kullanılmayan zamanlarda insanların pek sık öldüğüne dair tipik bir öykümüş bu. Emma, şarkının kahramanı, çok hasta, bunu anlatıyor. Ama Emma'nın çok büyük bir derdi var. O da diyor ki, lütfen evlatlarıma iyi bakın. Şimdi La Cara Emma, sevgili Emma'yı dinliyoruz. Oh, come mai, mia cara Emma, sono le nove, sei ancora a dormire. Mi sento male, mal da morire, ti raccomando i miei cari bambini. Al più piccino, dopo due mesi è male morta, di un'altra donna lui si innamorò. Di un'altra donna, donna crudele, che maltrattava i miei bei figliolini. Al più piccino dava le botte, agli altri due usava il bastone. I tre piccini van sulla tomba, oi mamma, ci tocca morire. Andate a casa, oh miei figlioli, che io cena l'ho già preparata. A mezzanotte torna il marito, leva la Emma seduta al balcone. Oh, come mai, mia cara Emma, tu sei tornata al mondo di là. Io son tornata per quell'ingrata che maltrattava i miei bei figlioli. Al più piccino dava le botte, agli altri due usava il bastone. Lombardiya'dan tekrar batıya, Liguria'ya geçtik. Cenova lehçesindeki bu geleneksel şarkı, şehrin barlarında ve hanlarında yaratılan sayısız kıtaya sahiptir. Olidin, Olidin, Olidena'yı 1973'ten Cenevalı grup Itrilli yorumuyla dinliyoruz. Olidin, Olidin, Olidena. Un giorno ca gente, che momento de apache. Quale mettemo un rima, quale mettemo un rima. Un giorno ca gente, che momento de ambasce. Però se non vi piace, un po' è andato in via bagasce. Oh, li dico, li dico, li tena, salva camuce e domenica cena. Oh, li dico, li dico, li ta, salva camuce e domenica fra. A prima dedichemo, è figlio qui blu jeans, che metta mostra e sciappe, che metta mostra e sciappe. Prima dedichemo ai figli qui blu jeans, che metta mostre e sciappe, vanno in cerca di lì. Oh, li dico, li dico, li tena, sabato a moce e domenica cena. Oh, li dico, li dico, li da, sabato a moce e domenica fra. A seconda dedichemo ai sueni con Rossello, sa danno i fidamasci, sa danno i fidamasci. A seconda dedichemo ai sueni con Rossello, sa danno i fidamasci, ma chissà se caldo gelo. Oh, li dingo, li dingo, li tena, sabato a moce e domenica cena. Oh, li dingo, li dingo, li da, sabato a moce e domenica fa. E cor nessun de moda, e tutto mondo sa, paga manche tasce, non paga manche tasce. E cor nessun de moda, e tutto mondo sa, non paga manche tasce, ma tacitan a campà. Oh, li dingo, li dingo, li tena, sabato a moce, domenica cena, ori tingoli tingoli da, sabato a moce, domenica fra. A una signora di Roma che c'è un poveretin, alassero i casotti, alassero i casotti. A una signora di Roma che c'è un poveretin, alassero i casotti e alla verte un gran casin. Oli tingoli tingoli da, sabato a moce, domenica cena, oli tingoli tingoli da, sabato a moce, domenica fra. Esisce l'aborto che serva l'importante, però come conseggio, però come conseggio. Esisce l'aborto che serva l'importante, però come conseggio, sei a me giusto in sei gambe. Oli tingoli tingoli da, sabato a moce, domenica cena, oli tingoli tingoli da, sabato a moce, domenica fra. Mela la rosa munda che de cuore è tanto grande, e vado ben a tutti, e vado ben a tutti. Mela la rosa munda che de cuore è tanto grande, e vado ben a tutti, a giava senza piante. Oli tingoli tingoli da, sabato a moce, domenica cena, oli tingoli tingoli da, sabato a moce, domenica fra. I trilli ve saluta, cuscino dava rima, e se va rute palle, e se va rute palle. I trilli ve saluta, cuscino dava rima, e se va rute palle, resta tutto come prima. Oli tingoli tingoli da, sabato a moce, domenica sera, oli tingoli tingoli da, sabato a moce, domenica fra. Oli tingoli tingoli da, sabato a moce, domenica sera, oli tingoli tingoli da, sabato a moce, domenica fra. Oli tingoli tingoli da, sabato a moce, domenica sera. İtrilli yorumuyla Olidin, Olidin, Olidena radyonuzdaydı. Yeniden bir Cenova şarkısıyla sizlerle birlikteyiz. Sıla hasretini anlatan bu şarkıdaki göçmen Cenovalı Güney Amerika'da evini özlemektedir. Ve aslında bir anda evine dönmek istediğini dile getirirken oğlu mutluyum der ama babası büyük annesinin yanında kemiklerini dinlendirmek istediğini söyler. Masse Gepensu 2006'da bizlere veda eden Lautzi'den geliyor şimdi. Ulea partiu senza una palanca. Lea za 30 anni, forse anche più. Ula veiva lutto per metti di ne a banca e poi se ne in giorno torna in su. E fa se a palassina e o giardinetto e un rampicante, qua cantina e un vin, e a branda tacai erbi a usuletto, vedaghe naschenà sei e mattin. Ma o figlio che diceva, nu che pensa, a Zena, cosa ti che ve torna? Ma se che penso a lua, mi vedo ma, vedo i miei monti e a casa d'annunzia, rivedo righi e messe strenze che vedo a lanterna a cava l'asume, rivedo a seia Zena illuminare, vedo la fuge e sento franze umà. A lua mi penso ancun derituna, a pose osse dove a me maduna. E lea passò du tempo, forse troppo, u figlio l'insisteva, stiemo ben, dove ti vei andà papà, pensiemo dopo. Un viaggio, ma te i vejo, non convien. Oh no, me sento ancora in gamba. Son stufo e non ne posso proprio più. Son stanco di sentir, signor, caramba. E vejo ritornamene un po' in giù. Ti, te nascio e te parlo spagnolo. Mi son nascio zanese e non me mollo. Ma se che penso a lua mi vedo ma, vedo i miei monti a casa d'annunzia, riveduri chi è me se strenze o che vedo a lanterna a cava la zinne rivedo a seia zena e lemina vedo la fuge e sento franze uma allo a mi penso ancun de ritorna a cose osse dove a me maduna. Cenova'dan derhal bir adaya geçmeliyiz. O zaman Sicilya'ya geçelim. Tenor Roberto Alagna tarafından yakın zamanda kaydedilen, Sicilya'nın her yerinde tanınan geleneksel bir şarkı geliyor. Abayeti, Abelleti. Dans et Açık Radyo'da. Io ballati, a ballati, femmini schiette maritati, e sono ballati, poi non vi canto e non vi suono. A ballati, femmini schiette maritati, e sono ballati, poi non vi canto e non vi suono. Su, su, su, quando femmini cacci su, cinque quattro scavanzati, ne facemo che patati, cinque quattro maccatelli, ne facemo che piselli. Ballati, uomini schiette e maritati, e se mi abballati, buoni, non vi cante, non vi son. Abballati, uomini schiette e maritati, e se mi abballati, buoni, non vi cante, non vi sono. Su, su, su, quando uomini cacci su, cinque quattro scavazzati, ni facemo che patati, cinque quattro maccatelli, ni facemo che mi senti. Sicilya'dayız. Ama bir Amerikalı'dan dinliyoruz. Dean Martin, Luna Mezzamare ile geliyor. Bu şarkı Godfather'ın düğün sahnesinde anne Carleone'nin söylediği şarkı olarak meşhur olsa da aslında pek geleneksel bir Sicilya şarkısıdır. C'è la luna mezzo mare, mamma mia, me mare da te. Figlia mia, cotta dure, mamma mia, già pensa tu. Se tu non la gangare, e dove vai, e dove ne, se me non sa se c'è manetene. Se ti piace le maccarone, mi piace spaghetti bu. La la la, la la la la la, la la. La la la la la la, yuhuhu, paisan! C'è la luna e mezzo mare, mamma mia, me mare da te. Figlia mia, cotta dure, mamma mia, già pensa tu. Se tu non la gangare, e dove vai, e dove ne, se me non sa se c'è manetene. C'è giudinelle, quando sei belle, tu te non faccio te lo mozzarella. La la la la la la la la la la. This is a tough song for me to sing because I don't speak a good Italian. Şimdi çizmenin burnundan topuğuna, Puglia'ya gidiyoruz. Geleneksel ritimli bir Apulia tarantellası var sırada. İlk gece çok az yemek yiyen bir gelinle ilgili. Müzisyen Francesco Ballila Pratella'ya göre bu şarkı 15. yüzyılın sonlarına dayanmaktadır. Kese Mania La Zita radyonuzda. Sanna cosa di che Deve la cagliere un punto di Riesce a cascia e maccarun Dove coppe una fu Dove tiempo non muta tu Tani lieve non muro mu Dieve un bello bufona tu Otto popparo con fiette Fabriolo va pindolie Capurtava la vita anche Ciò faceva ne va di spiet Tetta vallo conta tu Sei un pillo ben biscat Cinque scopi una madonna Ma faceva ne vario spat Quattro nato Şimdi Puglia'dan Veneto'ya, yani Çizme'nin kuzey doğusuna uzanıyoruz. Veneto, Venedik halk şarkıları genellikle korodur. Köylüler dağlarda ve ormanda çalışma sırasında ya da sonrasında üzüm hasadı sırasında yemekten kaçmak, fırınlarda bir koordinasyon oluşturmak için ya da işi daha katlanılır hale getirmek için şarkı söylerlermiş. Genelde enstrüman olarak mandolin, keman, gitar hem de Venedik tarzı timpano yaygın olanlar kullanılır. Bir de ceviz kabuğundan yapılan bir tür flüt olan piva Veneto halk şarkılarında oldukça çok kulağımıza gelir. Şimdi dinleyeceğimiz Venedik halk şarkısını Vincenzo Capezzutto'dan dinliyoruz. Capezzutto özel bir ses. Kendisini Leyla Dayana ile yaptığı bir röportajda şöyle tanımlamış. Sesim tenör sesi ve en kalın kadın sesi olan kontralto sesinin bir bölümünü kapsayan bir aralıkta doğal bir sestir. Yani rengi androjeniktir. Hem erkek hem dişi özellikler gösterir. Gözlerinizi kapatırsanız bir kadının şarkı söylediğini düşünebilirsiniz. Şimdi bir 16. yüzyıl Venedik halk şarkısı olan La Biondina in Gondoletta, Gondoldaki Sarışını Vincenzo Capezzutto'dan dinliyoruz. Thank you. Venedik'ten başkentin bulunduğu Lazio bölgesine uzanıyoruz. Roma'dayız. 1934'te El Do di Lazzaro tarafından yazılan tam bir İtalyan klasiği dinleyeceğiz. Şarkıda adı geçen Fornarina, yani fırıncı kız, Romalılar için bir arketip simgedir. Şimdi bu klasiği Roma denince akla gelen bir diğer klasikten, 1913 doğumlu ünlü bariton Gino Becchi'den dinliyoruz. Gitara Romana, Roma gitarı radyonuzda. Sotto un manto di stelle, Roma bella mi appare. Solitario il mio cuor, disilluso d'amor, vuol nell'ombra restar. Una muta fontana e un balcone lassù. Oh, chitarra romana, accompagnami tu. Suona mia chitarra, lascia piangere il mio cuore, senza casa e senza amore, mi rimani solo tu. Se la voce è un po' velata, accompagnami in sorellina, la mia bella Fornarina. Roma'dan bir diğer adaya geçiyoruz. Sardinya'dayız. Bu eski balat aynı zamanda Su Patriotto Sardu, Sardunyalı vatanseverin marşı olarak da bilinir. Şarkı sözleri 1796'da Francesco Ignazio Mannu tarafından Korsika'daki sürgünü sırasında kendi adasındaki feodal toprak ağalarına karşı yazılmıştır. Procurade e Moderare'yi Maria Giovanna Cerchi'den dinliyoruz. Moderare barone sua tirannia Chisino provvida mia torra desa pe in terra torra desa pe in terra declarava già sa guerra contra desa prepotenzia e incomincia sa pacienza in su popolo a mancare in su popolo a mancare Baronessa tirannia, procurate moderare, procurate moderare. Mirate che sta accendendo contra Deo il suo fuoco, mirate chi non è gioco, chissà cosa andate veras, chissà cosa andate veras. Mirate chi sa era svinetta. Procura de moderare, procura Sardinya'dan Baronlar ve Tiranlara Karşı yazılmış Procurade e Moderare'yi dinledik. Şimdi Calabria'ya geçiyoruz. Oi Pecoraro bir halk şarkısı. Bir çobanın tuhaf karakterini anlatıyor. Uygar toplumla iletişim kuramayan, yalnız ve çok huysuz bu adamın hikayesini 1936 doğumlu Calabriyalı müzisyen Otello Profazio'dan dinliyoruz. Oi Pecoraro. Curaro sta sia giorni fora e o sabato barone si navena. O sabato si chiama allegra core per chi ne tena a bella la mogliera. Chi non la brutta le scura lo core e meglio che lo sai. E meglio che lo sai, e meglio che lo sabato non vena. Lo pecuraro che sa sti cose, viene alla casa e non si riposa. Pecuraro te gerenzia, se ne veni alla via mia. Se ne venne facendo cruce, viene alla casa e studa la luce. Lo pecuraro che sa sti cose, viene alla casa e non si riposa. Pecuraro te gerenzia, se ne veni alla via mia. Se ne venne facendo cruce, viene alla casa e studa la luce. Se ne venne facendo cruce, viene alla casa e studa la luce. Oi pecuraro, oi pecuraro. Lo pecuraro quando si novena manca l'unetto sua, so sa curcare. Quando manta la capa lo cuscino, se grida bella trasti nello pane. Quando fa una carezza la mogliera, se grida bella pi, se grida bella pi, se grida bella piecora la cara. Lo pecuraro che sa ste cose, viene alla casa e non si riposa. Pecuraro mangia ricotta, va da chiesa e non si inginocchia. Non si caccia lo birrettino, pecurare lo malandrino. Lo pecuraro che sa ste cose, viene alla casa e non si riposa. Pecuraro mangia ricotta, va da chiesa e non si inginocchia. Non si caccia lo birrettino, pecurare lo malandrino. Pecuraro mangia ricotta, vanda che se non si inginocchia, non so caccia lo birrettino, pecurare lo malandrino, non so caccia lo birrettino, pecurare lo malandrino, non so caccia lo birrettino, pecurare lo malandrino. Oi pecuraro, oi pecuraro. Oi pecuraro'dan sonra hala Calabria'dayız ama bu kez bir tarantellayla. 1960 doğumlu Daniele Seppe'den dinleyeceğiz. Daniele Seppe aslında dünyanın farklı bölgelerinden yorumladığı protest şarkılarla meşhurdur. Fakat şimdi biz onu bir tarantella söylerken dinliyoruz. Daniele Seppe, Tarantella Calabrese ile Açık Radyo'da. Laudato sia lo santo sacramento. Beva di lo Carmino Maria, beva di lo Carmino Maria. San Pasquale fai nonne, protettore delle donne, manda a me lo marito, e ancora se coloreto, a di essere tale quale, no Mattia San Pasquale, a di essere tale quale, no Mattia San Pasquale. Dimmi ma ti cerchi un nido qua, dalle femmine senza vigne non si vogliono mare da, dalle femmine senza vigne non si vogliono mare. Daniele Sepe, Tarantella Calabrese ile radyonuzdaydı. Calabria'dan ayrılıp merkezi Ancona olan Marche bölgesine geçiyoruz. Ve bir serenatla kapatacağız bu Itabella'yı. Bu serenat ve arkasından gelen Saltarella, Marche ve Kuzey Abruzzo'nun tipik bir geleneğiymiş. Düğünden önceki akşamlardan birinde müstakbel damat arkadaşlarıyla gelinin evinin kapısına gelir, bu serenatı söyler ve onu kendisine görünmeye davet edermiş. Gelinin de babasının evinden onlara yiyecek ve içecek vermesi gerekir. Sonra da gece geç saatlere kadar dans eder ve şarkı söylerlermiş. Saltarello, bazı kaynaklarda Saltarella diye de geçiyor. Çiftler halinde yapılan tipik bir Orta İtalya dansıdır. Şimdi bu geleneğin bir örneğini 1990'ların meşhur DJ'i ve 2000'lerde de halk şarkılarını yeniden yorumlayarak kariyerine devam eden Ruby Santini'den dinliyoruz. Ben Cansın Sayesen, Itabella'daydınız. La Sposa Me ile bu haftayı kapatıyoruz. Hoşçakalın. Affacciati mia bella innamorata, son qui per te a cantar la serenata. Regalami qualcosa da guardare, ti prego dai non farmi più aspettare. E fammi vedere la bocca, cande belle la bocca a te. E fammi vedere una orecchia, cande belle la orecchia a te. E fammi vedere una spalla, cande belle la spalla a te. E fammi vedere che cosa, cande belle la sposa a me. Mare, mare, me, cande belle la sposa a me. Mare, mare, me, cande belle la sposa a me. Mare, mare, me, cande belle la sposa a me. Mare, mare, me, cande belle la sposa a me. Una cosa cande bella la cosa te. E fammi vedere un fianco cande bella lo fianco te. E fammi vedere la mossa cande bella la sposa me. Mare mare me cande bella la sposa me. Mare mare me cande bella la sposa me. Mare mare me cande bella la sposa me. Mare mare me cande bella la sposa me. Prima la bocca, dopo una orecchia, dopo la spalla e dopo l'upette. Fatto un giro, fammi vedere, cande belle la sposa a me. Prima l'upette, dopo una cosse, dopo un fianco e dopo la mossa. Fatto un giro, fammi vedere, cande belle la sposa a me. Mare, mare, me, cande, mostra la sposa a me. Mare, mare, me, cande, mostra la sposa a me. Mare, mare, me, cande, mostra la sposa a me. Mare, mare, me, cande, mostra la sposa a me. La bocca dopo la orecchia, dopo la spalla e dopo l'upette. Fatto un giro, fammi vedere, cande belle la sposa a me. Premo l'upette dopo la cosse, dopo un fianco e dopo la mossa. Fatto un giro, fammi vedere. E mo? Sei malata la sposa a me. Mare, mare, me, sei malata la sposa a me. Mare, mare, me, sei malata la sposa a me. Mare, mare.